abbiamo la fortuna della presenza del nostro presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, il professor Achille Ardigò, che è venuto appositamente per porgere il saluto ai relatori e ai congressisti. A lui la parola. Caro direttore, collaboratori tutti e presenti, purtroppo ritengo che occasioni come queste siano poco frequenti in Italia e nel mondo della cultura scientista che ci ha dominato fin qui. E questo lo avvertiamo, questa sorta di imbarbarimento del costume e anche della vita privata e pubblica, appunto perché pochi sono i richiami forti all'insegnamento che viene dal testo religioso, che è anche parola viva che porta in sé toni e carismi particolari. E quindi sono particolarmente lieto di assistere soltanto all'inizio, purtroppo, e poi mi farò dare gli atti però, di questo convegno, che credo unisca scienza e fede. Questo credo sia uno dei nostri problemi più forti, perché nelle situazioni di crisi del costume e della decadenza anche di una certa forza di tradizione, noi avvertiamo la tendenza a vecchi ritorni, a ritorni dissociativi tra scienza e fede. E questo è certamente un altro aspetto della decadenza di questo periodo nel quale viviamo. E devo dire invece che sotto la guida illuminata del nostro professor Roger, qui abbiamo da tempo una grande componente di questa spinta unitaria tra scienza e fede. Io penso, e voglio dire anche solo questo, che il nostro Istituto Trentino di Cultura, per iniziativa, per volontà, per creatività del suo fondatore, il senatore Kessler, ha voluto congiungere in un'unica struttura le due culture, la cultura umanistica e in particolare questa dimensione così attiva qui è vero, della cultura delle scienze religiose con la cultura tecnologico-scientifica. Noi abbiamo un più grosso dal punto di vista del finanziamento e del numero dei ricercatori istituto che appartiene, che è dentro l'area dell'ITC, che è il più grande centro italiano di intelligenza artificiale e di robotica di seconda generazione. Ora, dentro questa struttura che è l'IRST, c'è un settore specifico per il trattamento attraverso informatica avanzata, attraverso l'intelligenza artificiale, del linguaggio naturale. Io credo che sarà possibile, in prospettiva, nella continuità di questo sforzo che mi sembra così rilevante, anche vedere se sia possibile configurare un qualche aiuto che può venire da questa congiunzione strumentale però, tra la ricerca di intelligenza artificiale sul linguaggio naturale trasmesso, per cui se possibile interpretabile attraverso le tecniche, le tecnologie dell'informatica avanzata. Questo per dire che è un obiettivo nostro come istituto, la congiunzione delle due culture senza però nessun tipo di illusione scientista. L'illusione scientista sta morendo nel mondo occidentale, devastata dalle conseguenze di un'impostazione che ignora tutte le componenti che non siano puramente cognitive. Questo dramma dell'umanità contemporanea, che dopo la caduta del sistema di potere sovietico si trova per così dire privo di ideali, privo di valori, ha per così dire bisogno di una rifondazione e anche con una certa vivacità che non può essere integralistica. Io credo che uno dei grandi meriti di Monsignor Roger, ho finito, e quello, per quello che comprendo, è quella continuità dell'impegno a legare scienza e fede, senza sminuire la fede, perché evidentemente questa è la nostra grande risorsa in tempi così controversi. Perciò se in un futuro ci potrà essere qualche opportunità, so che il campo delle traduzioni, il linguaggio naturale trasferito attraverso tecnologie. È un problema che viene anche molto ampiamente elaborato, perché attraverso, mi ricordo, l'azione di illustri biblisti che hanno fatto ricorso all'informatica fin da tempi lontani. Però sappiate che in questo istituto esiste uno dei centri più rilevanti in Italia per la traduzione automatica o forme analoghe del linguaggio naturale. E questo credo che sia per i traduttori anche un problema importante per eventuali tipi di ricerche incrociate. Perciò concludo dicendo che mi sembra importante in ogni caso far crescere questo et, scienza e fede, e questo in un momento in cui praticamente noi rischiamo invece la dissociazione. Con questo spirito io sono lieto di poter dare avvio per quanto possibile a questi lavori così impegnativi, che evidentemente spero porteranno un contributo anche metodologico in direzione del vostro lavoro futuro. Molte grazie. Veramente devo ringraziare di questa, il nostro presidente, di questa introduzione tutt'altro che convenzionale, come loro tutti hanno sentito. Io ho solo il debito intanto di ricordare le adesioni che ci sono pervenute, in modo particolare da parte dell'assessor Grandi, che mi ha telefonato ieri pregandomi esplicitamente di significare la sua spirituale presenza, e soprattutto da parte dell'assessore Pino Morandini, che invece è anche presente in mezzo a noi, almeno a questa fase iniziale, malgrado i molti impegni. Vero che in questi giorni penso che avete consiglio regionale voi questa mattina o cose del genere. Ecco, e poi di rivolgere anche da parte mia il saluto più cordiale ai relatori prima, ai partecipanti insieme, e una parola di ringraziamento e di plauso ai due coordinatori che si sono preoccupati di mettere insieme il corso così come è programmato, ovvero il professor Moreschini e il nostro segretario attivo e solerte, il professor Menestrina, che in questa occasione in particolare si è voluto ricordare anche che insomma è anche uomo di studio e insomma deve dedicarsi anche a crescere in questo, in questa materia. Ecco, io venendo qua certo qual modo pensavo anche alle reazioni della cultura media rispetto al titolo che è stato proposto, la traduzione dei testi religiosi, dove la cultura media di traduzione si preoccupa poco, prende tutto ciò che è tradotto così come capita, e si capisca o non si capisca, vero, lo prende per buono, non ci dà grande importanza, e poi per i testi religiosi ancora oggi, vero, c'è una larga indifferenza. Mentre mi pare che il fatto stesso di esserci preoccupati, di aver concentrato la riflessione su questo tema, ci mette subito a contatto con l'immensa vastità della problematica del trasferire il pensiero da un idioma a un altro. E proprio nel campo dei testi religiosi questo tocca il nervo sublime delle cose, in certo qual modo. È già un problema coi testi letterari, però la storia ha avuto molto più a che fare con il problema della traduzione di testi religiosi, e ce l'ha anche oggi, anche se troppe volte lo si considera scontato. Io mi trovo più e più volte anche nella predica a raffrontare il come è tradotto un testo con il testo originale, e a dover integrare continuamente, e cioè criticare la traduzione. Se c'era una difficoltà qui era proprio nella molteplicità dei settori, nella diversità dei campi, che dico la verità, quando da prima fu proposta l'idea mi lasciò un po' perplesso, perché in realtà qui occorrerebbe fare altrettanti convegni quanti sono i vari settori qui presentati. Però credo che anche una interdisciplinarità, un dialogo che metta al vivo un po' al confronto questi vari settori, abbia la sua utilità particolare, e in questa interdisciplinarietà io in certo qual modo vorrei riconoscere anche la specificità di questo convegno, di questo incontro. Ecco, in questo senso della interdisciplinarietà il nostro presidente ha trasceso anche quelle che erano le nostre fantasie, perché ci ha ricordati di questa impresa di traduzione automatica che appunto nell'Istituto Fratello della ricerca scientifica, vero? Sempre sotto la guida dell'Istituto Trentino di Cultura, si va ricercando. Ecco, quando io chiesi al direttore Stringa se immagina che si possa arrivare ad una traduzione automatica che risparmia ai traduttori l'improba fatica del trasferire, allora mi ha spiegato che questa è utopia, che a questo punto di immediata e di automatismo sarà ben difficile arrivare. Però comunque è una grande impresa anche sul piano scientifico, e senza dubbio in questo contesto cercheremo di tenere presente anche questo mondo di cose, vero? In ciò che noi diciamo, e con la pubblicazione degli atti credo che potremo anche a loro, vero, presentare una serie di problemi che forse sono più sfumati, più delicati, anzi proprio più complessi, vero, di quello che le macchine mai sapranno risolvere. Detto questo, io non ho altro compito che di augurare a tutti il miglior successo. Vorrei dare brevemente la parola al coordinatore principale, il professor Moreschini, che introduca più scientificamente i lavori, per poi passare la parola al primo relatore. Grazie a tutti, Presidente, in modo particolare. Dopo le parole così pertinenti del Presidente e del Direttore dell'Istituto, poco mi rimane da dire, soltanto per introdurre i lavori in modo più concreto. Il problema della traduzione è un problema sentito come tale soprattutto negli ultimi 30 anni, problema quindi sostanzialmente recente. Ricordo ancora, quando io ero giovane, che la traduzione era appunto considerata qualcosa di scarso rilievo. Ora, è senza dubbio uno dei risultati migliori, io credo, della linguistica teorica, l'avere introdotto, l'avere, diciamo così, inventato il problema culturale scientifico della traduzione. Nomi famosi, non so, che possono essere Jacobson o Benjamin, sono noti a tutti. L'importante è vedere il passaggio dalla teoria alla concretezza della traduzione, vedere come si traduce. Convegni sui problemi della traduzione se ne sono verificati negli ultimi anni. Manca però, appunto, almeno a mia conoscenza, non ne sono stati organizzati convegni appunto sulla traduzione dei testi religiosi. Quando parlo di convegni, naturalmente non mi riferisco a riunioni in vista di mene accademiche, ma mi riferisco appunto a riunioni di studio. E mi sembrava quindi che fosse opportuno occuparsi della traduzione dei testi religiosi, anche se, come ha accennato anche ora Monsignor Roger, non era facile, perché partendo già dal testo religioso cristiano per eccellenza, appunto la Bibbia, si capisce che la problematica è enorme, gigantesca, e soprattutto la tematica fondamentale è quella della ermeneutica biblica, per la quale invece mi sembrava che non fosse necessario ora un approfondimento. E allora si è cercato di trovare, di configurare la problematica da discutere in questo convegno in, non tanto appunto come tematica di ermeneutica, come tematica di esegesi biblica, ma vedere a che cosa è servita la traduzione della Bibbia in quanto tale, come è stata considerata, a che cosa è servita sia nei tempi antichi sia anche ai nostri giorni in fondo. Quindi questa è una prima parte di questa, di queste due giornate di studi. La seconda parte è invece qualcosa di più storico che non teorico, vale a dire come nel corso della cultura cristiana, della spiritualità cristiana, sono state attuate le traduzioni. La traduzione fondamentale è appunto dal greco in latino, fondamentale, la più nota, ma accanto ad essa naturalmente sono esistite altre traduzioni in lingue orientali, per esempio, che, data la specificità del problema, sono a noi in gran parte ignote. E poi, scendendo nel tempo, si intende, ecco, le traduzioni dal greco in latino durante l'età medievale e umanistica. Come diceva poco fa Monsignor Roger, sarebbe stato necessario organizzare vari convegni su ciascuna tematica. Tutto ciò avrebbe portato all'elefantiasi e avrebbe prodotto, come dire, il blocco dei lavori, sarebbe stato poi poco funzionale e poco producente. A me, agli organizzatori, insomma, è bastato soltanto gettare una proposta, vedere, affrontare alcuni problemi, vedere concretamente come possono essere, come sono stati risolti o come anche possono essere, o se possono essere criticabili, perché naturalmente nel nostro, non dico nel nostro mestiere, nella nostra vita tutto è soggetto a miglioramento e ogni cosa può essere fatta in modo migliore. Quindi poche parole soltanto per giustificare questa proposta di lavoro e ringrazio tutti, sia i colleghi che sono venuti e sia i presenti. Ringrazio poi in modo particolare chi mi ha aiutato, l'amico Gianni Menestrina e Donzani, che mi ha introdotto, appunto, mi ha fatto conoscere colleghi di altre discipline, e in modo da poter dare a queste giornate di studio la più vasta possibile di incontro.